Iniziamo, siamo leggermente in ritardo. 8:04 minuti e 51 secondi. È il mercoledì magico e letterario di Radio Città Fujiko. Con grande gioia do il bentornato e il buongiorno a Silvia Albertazzi. Bentrovata, Silvia. Bentrovata anche tu, buongiorno a te e a tutte le persone che ci ascoltano. Sei un po' emozionata, Silvia, non sei più abituata alle nostre dirette? No, non sono più abituata alle levatacce. Ah, ok. Non suonava la sveglia in Canada allora. No, magari. Tieni conto che eravamo pure indietro di prima di 6 ore, poi quando siamo passati negli Stati Uniti di 7, quindi io sono ancora un pochino jet lag. Un pochettino sballata, sì, ok. Sì. Salutiamo anche Stefano che tipo mano degli Adams ci porta i suoi saluti, si è comportato bene il notaio. Sì, perfettamente. Sì, perfettamente. Bene, bene. E vi abbiamo sempre ascoltato, te e il nostro Lorenzo, che secondo me è stato proprio bravo. Sì, volevo fare appunto un saluto e i complimenti a Lorenzo Pauri, che ha avuto 3 puntate con i libri da te forniti, sì, tra l'altro, sì, sì, che sono stati recensiti e addirittura parte l'ultimo. Io non li metto in palio, se portiamo qualcos'altro, perché li tengo a cuore questi libri che sono stati un po' il mio esordio radiofonico, certo, con il Voltiamo Pagina. Infatti è stato proprio bravo, soprattutto sui primi 2 libri, e sul terzo devo dire che è stata una mia piccola cattiveria non fatta apposta. Era un libro che avevo cominciato a leggere anche io e che non mi piaceva, e quindi ho detto, se lo vuole proviamo, fare, se la sente, proviamo, magari a Lorenzo poi. E invece lui stesso non è stato carico di entusiasmo. Ha avuto la mia stessa reazione, cioè un libro pesantino dove c'è questo personaggio simpatico che però non è che ti risolve tutta la situazione. Ecco. Se anche voi volete dare il ben ritrovata e il bentornato a Silvia Albertazzi, e non solo, per comunicazione con conduzione, e poi avremo i quiz, i 2 libri sono in palio, ricordo il 333-180-9494. Letto in Canada questo libro? No, l'ho letto prima di partire. Ah, ok, quindi già preparata per questa presentazione. Hai letto nella tua lunga vacanza? Sì, ho letto diverse cose, ma mi sono divertita a leggere cose che non c'entravano, sì, diciamo. Sai cosa ho letto? Ho letto Cancellazione, in inglese, Erasure, di Percy Everett, di cui tu hai parlato. Ti è piaciuto? Molto. Ah, sì, meno male. Veramente, grazie. Molto. Per un attimo ho avuto, come si dice in polese, nei penotti, cioè la pelle d'oca per questo brivido. No, okay. L'ho letto proprio volentieri, mi è piaciuto molto. Poi dopo mi sono data a letture più semplici, diciamo, più da vacanza. Da evasione, tipo, certo. Però non tanto da evasione, ho letto qualche Simenon. Ah, sì. Okay. Che per me, come libri da viaggio, sono da aereo soprattutto. Perfetti. Sono sempre perfetti. Iniziamo invece con questo lavoro che tu hai detto hai già preparato pre-vacanza, con copertine in Audi, mi pare. Sì, dico bene? Okay. È un Einaudi di quelli cartonati, quindi che si suppone la casa editrice ritenga degni di massima attenzione. Si intitola Burnham Hood ed è di una scrittrice neozelandese, Eleanor Catton, che si è fatta notare diversi anni fa perché ha vinto il Booker Prize con un romanzo chiamato Le Luminarie. Ora, che io non ho letto, confesso, perché era troppo lungo. Era un tomo importante. Ho letto invece questo Burnham Wood, che è un romanzo che senza dubbio piacerà molto agli ecologisti, agli ecocritici, a tutti coloro che si occupano quindi di ambiente, perché tratta di una sorta di associazione, colonia di giovani ecologisti neozelandesi che si propongono di coltivare dei territori lasciati incolti, di coltivare anche degli appezzamenti di terreno che si ritengono non coltivabili e produrre con ciò dei prodotti chiaramente biologicamente perfetti, sì, curati certo, eccetera. Il titolo Burnham Wood fa riferimento, è il nome di questa associazione, ma fa riferimento a una foresta che appare nel Macbeth di Shakespeare. la foresta di Burnham Wood, appunto. Bene, la fondatrice di questa associazione è una ragazza che, quando si apre il romanzo, è sulla trentina, molto volitiva, molto, molto forte, diciamo, che appunto ha dato la sua impronta a questa associazione e che vive per questa associazione. Accanto a lei c'è la sua aiutante, che è sempre stata nella sua ombra, è sempre stata fondamentale per il buon esito delle loro imprese, ma che ultimamente comincia ad avere dei dubbi, comincia a essere un po' stanca sia di essere l'ombra della protagonista, sia soprattutto delle cose che stanno facendo, non ne vede più l'utilità. C'è da dire che man mano che il tempo è passato per questa associazione, i giovani di Burnham Wood hanno cominciato a lanciarsi in operazioni anche un pochino meno legali, diciamo. Ah. Cioè, da coltivare solo territori incolti, liberi, diciamo, pianino pianino si sono anche inseriti in appezzamenti di terreno di proprietà privata. Un esproprio proletario ambientalista. Modo. Ecco, c'è da dire che dobbiamo tenere conto che siamo in Nuova Zelanda, che è uno di quei paesi dove c'è una casa ogni 5 chilometri e dove ci sono appezzamenti di terreno enormi, per cui può essere che il proprietario non si renda conto di quello che succede all'altro capo della sua proprietà. E questa, accanto alla storia, anzi intrecciata alla storia di questa associazione Burnham Wood, ci sono due personaggi, quelle di due personaggi, entrambi, diciamo così, tra parentesi, tra virgolette, cattivi, seppur in maniera diversa. Da un lato c'è il proprietario di uno di questi, enormi, enormi tenute, che è un inglese trapiantato in Nuova Zelanda, che è un uomo molto ambizioso e molto vanesio anche, che è stato recentissimamente fatto Sir dalla regina Elisabetta II e se ne vanta come un pazzo. Questo signore ha fatto un accordo con un multimiliardario americano per vendergli il suo enorme territorio. Il multimiliardario naturalmente ha detto che lo utilizzerà per coltivazioni. Certo, non con tanta attenzione per il biologico, ecco. Vabbè, però per coltivazioni comunque. Ma in realtà ha già in mente di scavare per trovare dei minerali, perché ci sono dei minerali rari. Che chiaramente gli daranno un sacco di soldi. Quindi per fare proprio l'opposto, per fare un'operazione che sarà di contaminazione, di inquinamento, industrializzazione di tutta l'area. Quando il miliardario comincia a fare dei sopralluoghi in questa tenuta, si ritrova paradossalmente a confronto con la fondatrice di Burnham Wood, che lei stessa sta studiando quel posto, che essendo così grande si presta a qualcuna delle loro coltivazioni un pochino illegali. Un po' di escursioni, così. Naturalmente nasce una sorta di conflitto tra i due, e conflitto con un ricatto, diciamo, da parte del multimiliardario. Cioè, io sto zitto, non dico niente, andate pure avanti a coltivare, a me va benissimo, tanto io ho altri obiettivi. No, lui è più furbo, non gli dici ho altri obiettivi, dici ma è quello che volevo fare io. Ah. Anzi, vi aiuto, e gli dà un mucchio di soldi per coltivare. In qualche modo facendoli suoi alleati. Il tutto senza che il nostro Sir, che è troppo preso a dire quanto sono bravo, quanto sono bello, si accorga di nulla. Chiaramente poi le cose precipitano perché? Perché in questo libro, diciamo, tutti mentono a tutti. Non c'è una persona che si comporti limpidamente. La nostra protagonista nasconde l'accordo che ha fatto col miliardario, tutti nasconde i dettagli dell'accordo che ha fatto col miliardario ai suoi amici, agli... È una menzogna concatenata. Sì, il miliardario non dice ovviamente che sta già sfruttando il territorio, ma in realtà ci sono già le putrelle, ci sono già le... Sì. In altro, ti ripeto, è una zona enorme, per cui gli stessi associati di Burnham Wood non sanno cosa succede dall'altro capo della tenuta. E tutto questo viene in qualche modo scoperto da un giovane giornalista che era stato in precedenza un associato di Burnham Wood, era anche stato innamorato della fondatrice, ma poi era partito per diversi anni di studio negli Stati Uniti e al ritorno trova una situazione che per lui è completamente cambiata e capisce che c'è qualcosa che non funziona. A questo punto, in questo intreccio di menzogne, sotterfugi e chi più ne ha ne metta, da un lato traspare l'enorme cattiveria del miliardario. Questo è un libro dove c'è un cattivo che è un cattivo a tutto tondo. Sì, senza scrupoli. Senza scrupoli assolutamente, che non esita a portare dalla sua parte l'associata, l'amica della protagonista, che non esita quindi a andare avanti per la sua strada incurante delle vittime che semina sul cammino, diciamo, facendosi scudo della propria avvenenza, della propria capacità seduttiva, diciamo, e poi c'è questo ragazzo, questo giornalista, questo freelance, che ha capito che qualcosa non funziona, ma si trova a combattere con tutta una serie su diversi fronti, con dei poteri molto più forti di lui. Chiaramente lui è nessuno, è appena tornato, non è neanche associato a una testata, per dire, è proprio un freelance assoluto. E non solo, ma si trova anche per un comportamento sbagliato, incauto, dell'amica della protagonista, della fondatrice, si trova anche ad avere contro la stessa fondatrice, la stessa protagonista, che una volta invece era stata addirittura una sua... Ne era innamorato? Anche lei. Ah, ok. C'era questa sorta di attrazione. C'è un qui pro quo. Sì. Per cui i due, l'ultimo giorno, il giorno della partenza di lui per gli Stati Uniti, avevano avuto un unico rapporto, di cui lui si vergogna perché pensa di essersi approfittato di lei perché era ubriaca. Dal canto suo lei lo ricorda anche lei in maniera certo non soddisfacente, più o meno per lo stesso motivo, ma anche perché lo vede come un segno di debolezza da parte sua. È contentissima che lui sia tornato, spera di rimettere a posto le cose, ma lui arriva in un momento in cui lei è assente, parla con l'amica e l'amica non dice nulla, non parla di questo ritorno alla sua capa, diciamo. Sì. La quale si ritrova questo ragazzo a una riunione importante del gruppo Burnham Wood e lo vede che sta battagliando con i suoi adepti e difendendo le proprie idee in maniera molto forte. Ha l'impressione che lui lo faccia per farle un dispetto, insomma c'è tutta una serie di malintesi che portano proprio alla fuoriuscita del ragazzo, che dice basta, io ho provato a tornare, vedo che voi siete sempre quegli integralisti sciocchi, ingenui che siete, e me ne vado. Non ne voglio più sapere. E se ne va sbattendo la porta. Ma le bugie hanno le gambe corte, da quel che ho capito. Viene scoperchiato questo pentolone. Il pentolone viene scoperchiato, ma ma non diciamo altro. No, già capito. Non diciamo altro perché c'è un finale che dal mio punto di vista era anche abbastanza inatteso ed è un bel pugno nello stomaco. Però ti è piaciuto da come ne parli? No, non è stato un... Cioè... Però l'hai presentato con grande trasporto. Allora, no, non ho detto fatto, che non... Avresti fatto un finale diverso? Sì, avrei fatto un finale diverso, ma soprattutto senza fare un finale buonista, ma avrei fatto un finale un pochino diverso, ma soprattutto, lo vedi, è un libro di circa 400 pagine, è una storia che secondo me si poteva raccontare benissimo in 100 pagine in meno. Asciugheresti molto. Sì, ha dei momenti di stanca, francamente ha dei momenti di stanca che... sono un peccato perché la storia in se stessa è molto avvincente, senza dubbio. La scrittrice è giovane, ne sai scrittrice... qualcosa? Io non la conosco. Dunque, la scrittrice è del 1985, sì. Quindi è giovane, sì, molto è giovane. È giovane. E ti ripeto, ha vinto anche inaspettatamente diversi anni fa oramai, nel 2013, il Booker Prize con il romanzo, io ho detto prima le luminarie, no, no. I luminari. Le luminarie è una cosa un po' diversa. Sì, direi proprio di sì, quello enorme di cui si parlava. Stacco musicale, poi si ritorna al libro in palio. Sì, appunto. Ti racconto un attimo com'è stata fatta la playlist di questa settimana. Sì. La playlist di questa settimana è stata fatta, non ha niente a che vedere né con il libro e non ha neanche un filo conduttore. Semplicemente abbiamo ascoltato insieme a Stefano i dischi che lui ha comperato in Canada. A Toronto c'è questo grande negozio che vende dischi usati e anche libri di seconda mano, reminders, che veramente è una miniera. Quindi Stefano ha comperato un bel tot di dischi, ne abbiamo selezionati 4. Una playlist dal viaggio. E da questi abbiamo scelto i brani. Il primo che mandiamo mi piace molto, è un disco che mi è piaciuto molto, è un disco fatto da Billy Bragg e prodotto insieme a Wilco. Hanno preso dei testi inediti di Woody Guthrie, sì. E Billy Bragg li ha musicati. Sono... Per me sono molto belli. Guess I planted some long ocean seed of a song went down inside me long ago. And now I can't remember when it was, but it joined up with the rest of them and grows. It's such a little song, it don't compare with all your big ones you hear everywhere. But when it dawns, when the back of your mind, the big ones are made up of the little kind. Union song, union battle, all added up, what is all what we got now. Union song, union battle, all added up, what is all what we got now. I can't even start to look around me here without hearing this song. Seeing all of us first separated, hurt apart and afraid, hungry for the union, so we kept on singing and working, fighting till we got it. Yes, I hear. Union song, union battle, all added up, what is all what we got now. Union song, union battle, all added up, what is all what we got now. Com'è evidente la produzione di Wilco, che è una grandissima formazione per quanto riguarda una sonorità che ho definito semplicemente americana. Sonorità tipiche per me, ma ammetto che ho quasi tutti i dischi della formazione Wilco mi piacciono molto. Comunque torniamo allo spazio letterario, avremo una sorpresa per la prossima puntata. Ovviamente Boccaccia mia taci e tacerà, ma avremo una sorpresa per la prossima puntata. Allora Silvia, ormai direi che, visto che è in palio, quiz. È il momento del quiz. Sì, il quiz è molto semplice, almeno secondo me. gli abitanti della Nuova Zelanda vengono chiamati con il nome del frutto tipico di questo paese. Ah, non lo sapevo. Sì, nel libro vengono chiamati così non solo dagli americani, o dall'inglese, ma anche fra loro si chiamano, loro sono i... E non è un modo per essere disprezzati, no? Ma cioè, certo è un tantino dispregiativo. È un po' dispregiativo. Sì, è un po' dispregiativo, ma non poi neanche tanto. Almeno quando lo usano nel libro, quando lo usano i neozelandesi è quasi affettuoso. Quando lo usano gli americani e gli inglesi un po' meno. Pizza ecco. Maccheroni. Sì, ecco, esattamente. Un po' modo di dire. Però in questo caso, visto che parliamo di un libro legato all'ambiente e all'ecologia, è un frutto, il nickname, possiamo dire così, dei neozelandesi. Autrice, titolo, casa editrice. Eleanor Catton, Burnham Wood e Einaudi editore. 333-1809-494 per voi da ritirare presso libreria Ubik in Birnerio 27, che ringraziamo tra l'altro per la collaborazione con il Voltiamo Pagina. Qual è il nickname degli abitanti o dei cittadini neozelandesi che appunto si ispira al loro frutto più famoso? A tra poco. Stiamo ancora ascoltando, ricordo bene la voce di Beck. Beck, sì. Beck, anche questo selezionato di ritorno dalla estesa vacanza canadese per Silvia e Stefano. Ed ecco, per quanto riguarda la risposta al quiz, il nickname dei neozelandesi è stato un caso in cui l'allievo poteva intromettersi, ma il mio timore reverenziale mi ha portato a essere un po' titubante. più che a un frutto, sono contraddistinti dal nome di un piccolo uccellino tipico della Nuova Zelanda, che ha lo stesso nome del frutto, tra l'altro, sì. È il kiwi. Mi pare sia anche il simbolo della squadra di rugby della Nuova Zelanda, ed è ovviamente molto presente in questo territorio, e la risposta esatta è kiwi. Hai trovato, grazie al nostro notaio, altre particolarità, risale ai tempi della prima guerra mondiale. Sì. Sì. Il notaio ci ha fatto anche vedere l'immagine di questo uccellino, quindi stavolta devo dire, chiedo scusa, si vede che sono proprio ancora un po' da jet lag. Un po' jet lagged. Allora, io ringrazio Dino, ovviamente, ringrazio Alessandra che ha vinto il libro nel magazine recente trasmissione della rubrica del Breakfast Club, ringrazio la nostra Paola e il campione Andrea che ha risposto nell'immediato, ma la risposta più precisa e allo stesso tempo anche puntualissima è di Jarno da Calderara, che ha scritto Kiwis. Cioè ha messo anche il plurale, kiwis. Giustamente. E questo è, secondo me, azzeccatissimo. Quindi il lavoro appena presentato è tuo, caro Jarno. Ecco, grazie. Dico solo una cosa, chiedo scusa a Jarno, troverà qualche qua e là dei segni nel libro, perché... che non comprometteranno la lettura. No, anzi... No. Potrà essere d'accordo o no con le cose che ho sottolineato. Il fatto è che avrei dovuto farne la recensione, poi non ho fatto in tempo perché dovevo partire, però i segni sono rimasti. Beh, le note a piè pagina di Silvio Albertazzi danno un valore aggiunto, caro Jarno. Intanto ringrazio chi ha partecipato, le nostre ascoltatrici e i nostri ascoltatori al quiz, e oltre che tutto ciò avrà motivo di un'altra possibilità per il libro che presenterò io. Mi è piaciuto tantissimo invece, non conoscevo l'autore Fukazawa Shikiro, che ovviamente è di origine nipponica, è un racconto, lo leggete in tre quarti d'ora, sì e no. Di più ci metterete però, perché a ogni riga questa poesia vi farà tornare indietro per rileggere determinati passaggi. È una collana, è la piccola biblioteca di Adelphi che porta questi lavori in un formato oltre che tascabile, quindi mi sa che lo porterete sempre con voi. È una bellissima scoperta. Allora, come ho scoperto anche tante altre cose, del tipo che l'editoria in Giappone è un po' una casta, si tramanda, è un po' un circolo chiuso. Ecco, Fukuzawa Shikiro è un outsider, è un underdog, è un outsider, è stato un autore indipendente e porta su una piccola rivista Le ballate di Narayama per la prima volta nel 1956, ne ha un grande successo, viene proposto anche sul grande schermo con due film, ed è veramente una poesia, è qualcosa che ci porta lontano, è qualcosa che dà motivo di dialogo, di spiritualità, di un volo veramente nel sollevante, ma non con le modalità stereotipate, invasive, con qualcosa di diverso, ecco. Allora, la storia che a tempi antichi riporta in zone montuose, isolate, in due villaggi di fronte uno all'altro, dove due popolazioni costantemente però in contatto tra di loro, uniti da questa tradizione, vedono e vivono la loro quotidianità. La protagonista è Orin, è una donna. Orin è anziana, molto, molto anziana. Orin ha un figlio, alla quale ovviamente, cuore di mamma, è legatissima. Questo figlio, 40 anni circa, disgraziatamente resta vedovo. Resta vedovo prematuramente. Lei, comunicando con l'altro villaggio, dice: guardate che mio figlio non può restare da solo ed è un bravissimo ragazzo. Insomma, cerca una nuova compagna per il figlio. Pensate che è più preoccupata per questo ragazzo che per i quattro figli che ha avuto dal matrimonio, che purtroppo è stato troncato così dalla scomparsa della prima moglie. È più preoccupato per lui che per questi quattro figli, per questi quattro nipoti. Avverrà l'incontro ci sarà e ne conosceremo le modalità. La tradizione è poi abbastanza atipico anche, ma sarà tutto con una dolcezza veramente molto molto presente in tutto ciò, in questa bomboniera, come mi è stato definito. È una bomboniera, in effetti. Beh, questa donna avrà motivo allo stesso modo di crescita, saranno la classica bella coppia, ecco. La collaborazione tra di loro diventerà talmente forte che a un certo punto arriva motivo di viaggio, accompagnato da queste ballate di Narayama in musica e in poesia, per accompagnare Orin, accompagnarla a un viaggio dove deve incontrare un dio. È il momento del viaggio, è il momento in cui bisogna prepararsi alla partenza, insomma. E a questa preparazione ovviamente vi sono ricordi, vi è dialogo, vi è tutto quello che è stato una vita, le difficoltà, beh, difficoltà tante, eh. Beh, questo viaggio, non so se molti di voi avranno intuito, insomma, questa donna arriverà in questa zona dove per tradizione le persone anziane si lasciano lentamente, così si spengono come delle candele, e accompagnata da queste ballate di Narayama conosceremo divinità, conosceremo preghiere, conosceremo le poesie, conosceremo quanto ha fatto questa donna fino ad arrivare a preoccuparsi per il futuro di questo ragazzo, trovando una nuova compagna per lui, assicurando una nuova vita, assicurando un percorso, quasi pagandola con la propria, quasi portando una vita veramente di stenti, di fatica, di lavoro, e per incontrare, come dicono loro, finalmente avrò modo di incontrare questa divinità. Il viaggio sarà molto molto intenso, e pensate, in così poche pagine è raccolto tutto questo contenuto che mi ha colpito tantissimo, come potete ben intuire dalle mie parole, di questa famiglia, il lutto, il portare avanti una comunità, il trovare un nuovo motivo di aggregazione, prenderlo e condividerlo, il parlarsi, il avere allo stesso modo nelle ballate di Narayama, che è questa sonorità e questa poesia che accompagna il viaggio di Orin, di questa donna che quasi va ad assolvere un suo ultimo compito, no? E preoccupatissima per il figlio, una nuova compagna, preoccupata ovviamente anche per i nipoti, ma soprattutto per il figlio. Il più grande dei quattro si unirà a queste ballate insieme alla sua compagna a sua volta, e il percorso per, come diciamo, per arrivare all'altra sponda del fiume, no? E per quanto riguarda invece la tradizione nipponica, e per arrivare a un congedo nel lasciarsi e spegnere i contatti con questo mondo, per andare da questa divinità che sarà all'altrove per la protagonista Orin. Beh, è contenuto in pochissime pagine, però vi posso assicurare che l'intensità è veramente molto molto forte. Scusa, dimmi. L'hai detta la casa editrice? Adelphi, sai che pensavo che con piccola biblioteca fosse abbastanza, ma sono io che sono un appassionato. La casa editrice è un Adelphi. L'autore è un outsider, anche perché spiegano poi in alcune note che in Giappone la letteratura praticamente è molto chiusa, cioè si tramanda tra editori e scrittori, è difficile, diciamo, entrare in quel giro. Ma questo è un libro nuovo o è un libro 1956, antico? 1956 la pubblicazione, e pensa che oltretutto all'epoca sarà stata ancora più chiusa, certo. Immagino questa situazione, no? Per cui onore al merito. Per certi aspetti, vabbè, non dico altro, dai, perché mi ha ricordato alcuni scritti di chi mi sta di fronte, però vabbè, okay, però di questo avremo modo, no, veramente, avremo modo poi. No, invece mentre tu parlavi, a me ha ricordato dei film che non c'entrano niente col Giappone, ma dove c'è sempre un personaggio che va su una barca verso la fine, verso l'isola o il posto dove si va a morire. Per esempio un film, un bellissimo film secondo me, di Michael Cimino, Verso il sole, dove alla fine appunto il protagonista viene messo su questa barca e si capisce che va a morire. Oppure un film che io amo moltissimo, che è Dead Man di Jim Jarmusch, stesso discorso, finale con Barca dei morti, se vogliamo. Sì, e a me ha ricordato Scanoboa di Cibotto, nel delta del Po, in questa isola non isola, dove appunto, ma lì vi è anche la comparazione, perché intanto che vi è il percorso verso il piccolo cimitero di Scanoboa, dall'altra parte la moglie di un pescatore si scambia nel tragitto e sta dando luce a un bambino. Ah, che bello. Quindi sì, è un'immagine molto particolare. Allora, intanto noi abbiamo una citazione al format di Alfredo Pasquali e Sandro Baroni, che hai voluto portare. Sì, con dai, Joshua questa Redman. È una dedica. Così stemperiamo, è una un po' dedica tutte ad Alfredo, che sono un mezzo secolo che fa questo programma chiamato Salt Peanuts. L'interprete è Joshua Redman. A tra poco per il quiz, eh. Salt Peanuts, Salt Peanuts. Alfredo e anche Morena, che sono entrati, oltre che per un saluto, per rendere omaggio alla playlist, alla nostra attenzione musicale, e non solo. Comunque, beh, per quanto riguarda il lavoro da me appena presentato, scusate, io praticamente i libri li racconto tutti, tutto, il contenuto lascio ben poco, però di solito io seleziono libri per come sono scritti, per certo il contenuto, non per una sorpresa, a volte sì, certo, ma nella maggior parte dei casi per me sono le modalità, la voglia che portano ad approfondire altri concetti, insomma la sorpresa diventa poi in ogni riga, mi permetto di dire, ecco, e vi posso assicurare che nelle ballate di Narayama ce ne sono per lettrici e lettori curiosi, anche se come me non particolarmente appassionati al paese del Sollevante, con tutto il rispetto, ci mancherebbe, però non è che sia anime, manga e tutto il resto, eppure Negli anni Ottanta vi è stata una presenza molto forte, alla quale non siamo certamente riusciti a distaccarci, anzi, tutt'altro. E la protagonista del quiz è una bellissima ragazza extraterrestre che arriva sulla Terra perché cerca un fidanzato e in seguito matrimonio, e lo troverà per motivi oltre di mandare avanti la dinastia, a proposito di famiglie, per avere la possibilità di una vita terrestre. Vediamo un po' se conoscete, già stanno arrivando delle risposte. Ma cos'è, scusa, un cartone animato? Ha già risposto, sì, è un cartone animato. Per me è il cartone animato più bello in assoluto, di tradizione nipponica, È una ragazza extraterrestre, si ritrova sulla Terra, è una competizione alquanto strana per trovare ed avere il fidanzato. Lei è velocissima, no? Molto scattante, molto agile, addirittura riesce a volare. Il ragazzo che riuscirà a toccarmi queste piccole protuberanze che ha sul capo, ha due cornina, come è bellissima, è una ragazza, guarda, che ha scatenato le fantasie che tu manco puoi immaginare. Beh, il ragazzo che riesce a toccare queste due protuberanze per primo sarà il fidanzato ufficiale, in seguito marito, di questa nostra protagonista misteriosa. Così, per gioco, tale Ataru Moroboshi riesce. Sai come riesce? Con uno stratagemma strappa a questa protagonista il reggiseno. Lei si deve fermare per coprire, appunto, le parti scoperte, e lui ne approfitta, tac, la prende. Ma non sa quello che va incontro, perché da lì in avanti, sarà il suo fidanzato ufficiale. Lui, tra l'altro, è già fidanzato sulla Terra con tal Shinobu, e da lì inizieranno veramente degli equivoci, delle scenate di gelosia. E poi tu non saresti un esperto di nipponismo? No, questa protagonista, ammetto, ne ero segretamente innamorato, dico la verità. Sto temporeggiando perché a me, sinceramente, lo so, i National non ti piacciono. Non mi piacciono i National, però guarda, li metto come sigla di conclusione intanto che porto. L'abbiamo detto vincitore. Ieri sera, quando l'abbiamo selezionato, Stefano ha detto: tanto sappiamo che a Willy i National non piacciono. Sorrow waited, sorrow won. Sorrow they put me on the pill. It's in my honey. Grazie Paolo, ma il vincitore è Francesco. Francesco, hai vinto di Fukazawa Shikiro le ballate di Narayama per Adelphi. Intanto scrive: a me piaceva più Gigi, gli piaceva, se ho intuito bene, anche Gigi la Trottola. Gigi la Trottola era meglio, dai, io ero affascinato da Anna. Gigi la Trottola voleva assolutamente vedere la biancheria intima invece di Anna. Questi giapponesi hanno dei messaggi che... Ma come si chiamava sta ragazza, in conclusione? La Mu. Francesco, io ti aspetto questa sera, dove potrei ritirare il premio Le ballate di Narayama, anche Jarno, io mi porto entrambi i libri per quanto riguarda il Comini Express in via Fioravanti 68. Se poi non vi trovo, li lascerò nella giornata di giovedì da Ubik, però se passate questa sera vi consegnerò brevi mano i due libri presentati. Grazie Silvia, dobbiamo salutarci. Grazie a te, grazie di essere tornata. Grazie, dai. A mercoledì prossimo. A mercoledì. Cover me in rag and bone. Sympathy. Cause I don't wanna get over you. I don't wanna get over you.